Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Inizia il mese di giugno anche per il mondo della scuola, che in realtà con la prossima settimana terminerà le lezioni. Anche noi andiamo verso la fine del nostro ciclo di trasmissioni. Mirko Cavallini in studio con una serie di ospiti, ciascuna per ogni blocco della trasmissione. Sono tutte studentesse del CFP San Luigi di San Donà di Piave, che conosciamo appunto direttamente dalla loro voce. Saluto intanto, che sono qui a fianco a me, Sonia e Francesca, benvenute. Grazie, ciao. Terza C, giusto? Sì. Terza C, voi fate l'indirizzo operatore del benessere, indirizzo acconciatore. Sì, esatto. Poi entreremo nel dettaglio delle materie, ma intanto, Francesca, facciamo un po' di storia della scuola che frequentate. Sì, allora, la nostra scuola, il CFP San Luigi, è arrivato a San Donà di Piave 60 anni fa per volontà dell'allora parroco Monsignor Saretta, che voleva le suore della riparazione nella sua parrocchia. La congregazione che dirige il nostro istituto ha la sede centrale a Milano e i suoi fondatori sono padre Carlo Salerio e madre Maria Carolina Orsenigo, che nel 1859 circa fondano questa realtà per riparare, salvare e aiutare le ragazze abbandonate, poverissime o appena uscite dal carcere, insegnando loro un lavoro e dando loro un'educazione culturale, cristiana e umana. Siete a San Donà di Piave, ma non solo a San Donà, vero Sonia? Giusto, un'altra sede importante è ancora presente nel Veneto. Oltre a San Donà è il Marovic a Venezia, ora anche sede dello studentato di Santa Fosca, della Mensa dei Poveri Casa Betania ed alloggio per un gruppo di badanti straniere, sempre in collaborazione con il Patriarcato e Caritas Veneziana. In questo istituto, che accoglieva nel Novecento più di 200 ragazze, ora si conserva lo spirito di Anna Marovic, altra figura importante della Congregazione delle Suore della Riparazione, che l'anno prossimo festeggerà i 200 anni della nascita di questa figura. E tra le tante ragazze che appunto nei 200 anni di storia, 60 per la scuola, hanno ricevuto aiuto in qualche modo, formazione, ci siete anche voi. Voi, abbiamo detto, frequentate l'indirizzo acconciatore in operatore del benessere, ma oltre al vostro e alla vostra classe, quante classi ci sono, Francesca? Ci sono due corsi, 9 classi e una classe di autonomia, e poi ci sono due classi, la quarta B e la quarta C, che sono di specializzazione. E le materie, appunto, già il nome del vostro indirizzo dice molto, però chi non frequenta o chi non sa, insomma, Sonia, quali materie studiate voi? Oltre alle materie dell'area culturale ci sono le materie professionali come chimica, anatomia, poi tecnica professionale, dove applichiamo il colore, il taglio, le pieghe, le acconciature moda, poi anche l'accoglienza sul lavoro e la sicurezza del lavoro, molto importante anche questi per il salone. Fra poco avete l'esame, che consisterà anche in prove pratiche, ovviamente, oltre che alle prove di italiano, storia, eccetera, cultura generale, quindi vi facciamo l'in bocca al lupo, ma vorrei che ci raccontaste alcune iniziative e progetti a cui in questi anni avete partecipato, Francesca. Noi siamo andati in casa di riposo in seconda e anche in terza. Poi in terza, da gennaio fino ad aprile, abbiamo fatto l'esperienza di stage e poi facciamo anche i campionati internazionali e i trucca bimbi. I trucca bimbi, cioè? Sì, con un'associazione andiamo a truccare i bambini. Ma voi fate, per capire, nel corso, durante la scuola, fate solo acconciatura o anche trucco? No, in prima abbiamo fatto un anno di estetica, che comprendeva la manicure, quindi applicare uno smalto, e anche il trucco. Mm. E quando è che avete cominciato a pensare di fare questo indirizzo? Magari già da bambine facevate esperimenti a casa, Sonia? Sì, sulle Barbie e poi anche Sulle Barbie, non sui parenti. No, sulle Barbie. Per ora. Per ora, vabbè, adesso avete imparato. Sì, adesso, qualcuno si è già cimentato, nel senso che si è messo a disposizione per dei tagli magari semplici. Tagli ancora no, però le pieghe sì. Qualcosa avviene, sì. Con le pieghe quindi donne immagino. Sì. Perché se è una piega per un maschio è un po' più problematico. Anche tu Francesca hai cominciato da bambina? Sì, sì, fin da piccola mi piaceva pettinare i capelli sulle bambole. E però in terza media in terza media quando hai dovuto decidere, sì, ero convinta della mia scelta di diventare una parrucchiera. Tra l'altro mi dicevi prima a microfoni spenti che hai anche una parente che già è del mestiere. Sì, sì, mia cugina, infatti anche lei mi ha un po' indirizzato, sì, esatto, consigliato, esatto. E dopo l'esame, perché adesso appunto c'hanno i prossimi giorni che vi vedranno impegnate, poi quali strade si aprono, Sonia? Ho già trovato lavoro in un salone vicino a casa, quindi sei già instradata. Sì. Bene, ma avevi già fatto magari dei periodi nelle estati precedenti oppure? No, nel periodo di stage vado. Vai lì? Sì. Quindi sei già conosciuta, sì, anche sì. Sia dalla titolare che dalla clientela. E Francesca invece? Io invece sto cercando lavoro, però vorrei fare il quarto anno di specializzazione. Bene, c'è anche questo, sì, sì. Che consiste in ulteriori corsi. Sì, è un approfondimento delle materie e in più hai un attestato che grazie a questo puoi aprire un salone tutto tu. Sì. Invece in questo caso solo con il titolo di diploma non puoi essere titolare. No. Bene, allora in bocca al lupo anche per questo. Tra poco conosceremo anche le vostre compagne, ce ne sono altre quattro da conoscere, ma c'è ovviamente la prima pausa musicale che avete scelto voi. Che cantante avete scelto, Francesca? Alessandra Amoroso. E la canzone è? La mia storia con te. La dedica? A tutta la classe, però principalmente a me, a mio amoroso Lorenzo. E a un mio caro amico. Alessandra Amoroso e poi ancora insieme, dal mondo della scuola. Guardami bene negli occhi. Da troppo tempo sfuggi da me. Sembra lontani, quasi anni luce. Quei momenti con te, quando mi dicevi sei bellissima, mi facevi vivere una favola, quando mi sentivo indispensabile, di una gioia immensa fino a piangere, mentre adesso è tutto lontanissimo e ci divide un solco profondissimo, storia con te. Forse non c'è via d'uscita, quando ogni cosa non va da sé, sai certe volte mi sento sola, anche con te. Eppure mi dicevi sei bellissima, scrivevi ti amo su ogni pagina, quando ripetevi sei fantastica, mi sfioravi e mi sentivo unica. Ora invece è tutto lontanissimo e ci divide un solco profondissimo. Yeah. te. La mia storia con te. Seconda parte dal mondo della scuola con alcune studentesse del CFP San Luigi di San Donà di Piave. Cambio della guardia dopo Alessandra Amoroso, la canzone La mia storia con te che abbiamo ascoltato e prima dedicato. Sono arrivate dalla terza B Valentina e Sara, benvenute. Ciao. Buongiorno. Anche loro avranno una dedica poi al termine del loro blocco. Sara, voi siete di un altro indirizzo rispetto a Sonia e Francesca. Noi siamo del corso operatore amministrativo segretariale e che si occupa dell'ambito contabile, quindi tutto ciò che riguarda il mondo di oggi, ad esempio le fatture, tutto quanto, i conti. Conti, conteggi, fatture, esatto. Insomma, la matematica fa parte. E quindi nostro... bisogna saperla, esatto. Andar bene, non odiarla la matematica. Oltre alla matematica, chiaramente, che materie specifiche avete, Valentina? Le materie professionali del nostro corso sono organizzazione aziendale, amministrazione del personale e trattamento testi, cioè sarebbe come informatica. Cioè anche l'uso del computer, esatto, scrivere, sì, mandare sì, una sì, mail, sì. Scrivere una lettera, come si scrive, tutte queste cose qui. Esatto. Avete imparato? Sì, perché poi c'è l'esame. Sì, esatto. Siamo un po' sul critico, però piano perché? Piano ce la facciamo. Perché sul critico? Perché comunque è tutto a base di computer, quindi non è che si può ripassare a casa. Mm. Abbiamo i vari aule. Programmi, mm-hmm. i vari programmi a scuola e quindi comunque a casa non possiamo magari... Potete tentare. Studiare alcune cose ma non esatto, fare le cose. Esatto, solo la teoria tipo storia, italiano, mm-hmm. ma nell'ambito contabile... Niente. E l'esame che anche voi avrete tra pochi giorni in cosa consisterà? Oltre che al solito italiano, storia, eccetera, cioè la prova pratica cosa sarà? La prova pratica sarà ad esempio fare delle buste paga e dopo dai dati che prendi dalle buste paga inserirle nel nostro programma che usiamo di contabilità, cioè VSAI, e dopo fare diversi tipi di esercizi come i mastrini. Sono diverse operazioni, calcoli, sì, esatto. Mm-hmm. E poi abbiamo anche informatica di cui ci stiamo occupando soprattutto sui pacchetti Office, mm-hmm. soprattutto su Excel e Word. Che sono poi le cose che si usano, esatto. maggiormente. Avete avuto voi due personalmente, o magari altre compagne di classe della terza B, già esperienze di stage, di contatto con il mondo del lavoro, Sara? Sì, anche noi abbiamo fatto comunque delle esperienze di stage, sempre vicino a dove abitavamo. A parte io che comunque da Caorle mi sono dovuta spostare verso San Donà per andare alle assicurazioni, comunque eravamo divisi nelle assicurazioni o in altre attività. Esatto, in altre mm-hmm. attività. Valentina, dove sei andata? Io sono andata su un'assicurazione e anch'io comunque non ho trovato vicino a casa perché comunque non tutte le aziende accettano i stagisti, però comunque mi sono trovata bene ed è una bella esperienza perché comunque vedi cosa... Se ovviamente ti piace questo corso mm-hmm. e se vuoi veramente continuare a fare questo lavoro... Ed è veramente una buona scelta. Avete prospettive, già idee per il post-esame? Oddio, post-esame. Al mare intanto. Esatto, intanto si va al mare. Beh, tu che sei di Caorle, esatto. quindi ce l'hai a casa. Sì, si tenta di studiare. Cioè, penso che mi prenderò negli ultimi giorni, però piano piano inizierò anch'io a studiare. Mm. Perché è sempre a scuola che comunque si imparano le cose, perché appunto per i programmi contabili e poi storia, italiano non mi preoccupo. Bene, e invece e dopo l'estate hai già prospettive lavorative o magari di continuare gli studi con un'ulteriore specializzazione? Sì, ho trovato un lavoretto sia a casa perché comunque non hanno detto che è un lavoro su chiamata, quindi quando hanno bisogno mi chiamano uh-huh. e per ora ho questo. Poi al massimo starò a casa, aiuterò un po' i miei e farò un po' da babysitter ai miei vicini di casa, dato che hanno i bambini piccoli, però comunque in quest'ambito non ho trovato molto. Non c'è molto. Esatto. Valentina? Anch'io non ho trovato lavoro in quest'ambito, però sto già lavorando e continuerò tutta quest'estate in un ristorante, quindi... Quindi intanto qualcosina, esatto, si racimola. Tornando indietro alla terza media, quando a metà dell'anno avevate fatto la scelta, appunto, che cosa farò alle superiori, intanto vi chiedo se è stata una scelta che giudicate positiva. Beh, oddio, io ho fatto l'ambare a Bacci Cicocò, lo ammetto, dovevo andare a fare meccanico. Quindi era tutto un altro settore, cosa. Esatto, però dato che i miei genitori mi hanno detto dai almeno sii un po' femminile, vai a fare l'ambito segretariale, e quindi mi sono ritrovata qua. Però a fare... ti sarebbe piaciuto l'indirizzo meccanico? Sì, però comunque mi sono trovata bene perché comunque i professori sono molto buoni, tra virgolette, non tutti, però la maggior parte. Escludiamo i presenti. Esatto, perché sennò... però comunque è stato... abbastanza bello comunque. Bilancio complessivamente, esatto, positivo. Valentina? Io invece comunque alle medie non volevo andare a fare segreteria. Poi comunque ho trovato questa scuola e già dall'inizio comunque vedevo che era molto unita, cioè pensava veramente al tuo futuro. Dopodiché, soprattutto dopo lo stage, mi sono resa conto che non vorrei fare comunque questo lavoro in futuro, e mi avrebbe piaciuto soprattutto andare a fare sulla fotografia, però comunque si può sempre rimediare quei corsi. Si rimedia, insomma, in qualche modo. Beh, è un percorso che vi auguriamo di concludere nel miglior modo possibile, tra grazie, pochi giorni con l'esame. Come dicevamo, anche voi avete una dedica da fare. Sono i Passenger con Let Her Go. A chi la fate? Alla nostra classe, la terza B. A tutta la classe terza B, lo in bocca al lupo a tutte. Tra poco l'ultima parte con altre due studentesse. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. We'll be right back. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you feel low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Dal mondo della scuola. I Passenger, Let Her Go, dedicata prima da Valentina e Sara tutta la terza B. Dalla terza B arrivano altre due ospiti del CFP San Luigi di San Donà di Piave, Fabiola e Adela, benvenute. Grazie. Ciao. Anche voi avevate una dedica proprio su questa canzone. Sì. Adela? Io la dedico a mio amoroso Giovanni. E io a una mia amica. Bene, allora abbiamo chiuso anche con le dediche a modi anni 80 della radio. Con voi, parlando appunto della vostra attività scolastica, anche voi facciamo l'in bocca al lupo per l'esame, anche voi siete dell'indirizzo segretariale, giusto? Sì. Essendo della terza B, con voi facciamo un passo indietro in questi tre anni, momenti brutti, momenti belli da ricordare individualmente o come classe, Adela. Sì, beh, momenti brutti li vediamo tutti gli anni, uno di questi sono proprio gli esami, che nella nostra scuola ci sono ogni fine quadrimestre, quindi abbiamo degli esami che sono delle prove orali e scritte che ogni classe deve effettuare per poi andare avanti. Poi un problema che abbiamo avuto noi della nostra classe quest'anno è proprio quello della gita. Purtroppo quest'anno per vari problemi non siamo riusciti ad andare in gita per 3 giorni. Proprio l'ultimo anno. Sì, esatto. Tutti l'hanno fatta, noi no. Quindi vabbè, ce la siamo messi via, insomma. Va bene. Pazienza, esatto, pazienza. Ma negli altri anni dove siete andati? Siete andati da qualche parte? Sì, siamo andati. Beh, quest'anno abbiamo fatto la gita a Bologna. Gli anni scorsi siamo andati nel Museo dei Sogni, una gita molto artistica, diciamo. Uh-huh. E il primo anno siamo andati a vedere il lago di Garda. Però abbiamo notato che ogni volta che ci muoviamo noi piove. Cioè avete la nuvoletta. Sì, esatto. Quindi meglio stare quest'anno, in casa. Infatti, sì, abbiamo detto non andiamo a Parigi. Così. Siete state all'asciutto. Sì. Ecco, quindi questi tra i problemi, momenti belli. Beh, la nostra scuola è famosa per l'attività che organizza il dopo scuola, quindi io per prima ho partecipato a più di qualcuna, una di queste è il teatro che abbiamo fatto in prima, che è stato molto, molto divertente, diciamo. Poi abbiamo fatto lo stage e ho organizzato da quest'anno lo stage all'estero per la quarta B e la quarta C, quest'anno sono andati a Valencia, speriamo che anche noi il prossimo anno riusciamo, diciamo. Mm-hmm. E poi c'è la Simul Impresa, che è un'attività che permette ai ragazzi del nostro settore a vederci come saremo nel mondo del lavoro, quindi ci sono tutti i vari uffici e tutti come siamo a lavoro, diciamo. Come fosse un'impresa, un'azienda, esatto. Vera. Mm-hmm. Sì, sì. Poi un'altra cosa carina è che i professori sono molto più socievoli, diciamo, essendo una scuola diretta da suore, si cerca di stare attenti a certi punti di vista. Certi. Tu lo dici, sembra che confronti con qualcos'altro, o perlomeno con esperienze di altri, cioè come fai a dire che i professori sono più socievoli? Beh, perché cioè, ho amiche che frequentano altre scuole, quindi rispetto alla mia ci sono dei comportamenti di certi professori che sono completamente diversi nella nostra scuola, appunto perché la nostra scuola cerca di stare più attenta a determinate cose, diciamo, ecco. Mm-hmm. C'era un'attività che mi era stata segnata negli appunti preparati dal professor Bison, Fabiola, mi ha scritto semplicemente buongiorno, che non è un saluto che mi ha scritto qui, ma credo sia un'attività tipica della vostra scuola. Sì, è un'attività che facciamo più o meno una volta al mese, ci troviamo in aula magna, tutte le classi, per un'oretta e mezza. E diciamo veniamo coinvolti in un tema, si cerca di parlare, di svilupparlo, esatto. E si danno gli impegni di quel mese che ci sono. Sì, è un momento di incontro, diciamo. Prime, seconde, terze, quarte, sì, tutti insieme. Tutti. Adela citava quarta, quindi vuol dire che hai già intenzione dopo l'esame. Sì, sì, sì, assolutamente. Io voglio continuare gli studi. E quindi E quindi avanti. Esatto. Fabiola? No, io invece ho deciso di cambiare scuola, quindi... Ti prendi questo diploma, questo titolo, sì, di diploma, e poi? E dopo vado in un tecnico, e là continuo per altri 3 anni. Altri 3? Sì, perché devo ripetere la terza per tutte le leggi. Sì, e... ok, non corrispondono alcune cose, quindi va bene. Insomma, intanto vi facciamo l'in bocca al lupo, compreso a voi, a tutte, anche quelli della terza A che non abbiamo conosciuto, e quindi a tutti quanti. Tra gli altri appunti che mi sono segnato c'è una cosa... trovo due parole, lascio a te, Adela, spiegare. Belle Époque. Beh sì, la Belle Époque è un'attività che è stata proposta dal comune di Saint-Donat, che è la giornata della storia, ed è il 10 maggio, è stata fatta il 10 maggio, e i nostri ragazzi, la nostra scuola appunto, ha allestito delle scenette dell'epoca, dove alcune ragazze hanno fatto da modella e altri hanno... Chi ha fatto le acconciature, quelle della C. Esatto, altri hanno fatto le acconciature, quindi ognuno aveva un compito preciso. Il 10 maggio, hai detto, il 10 maggio è stato anche il giorno dell'incontro di tutte le scuole italiane con il Papa. C'era qualcuno di voi? Beh sì, c'erano 15 ragazzi della nostra scuola, rappresentanti di tutte le 9 classi, che sono andati e hanno rappresentato il CFP San Luigi. Degnamente. Esatto. Tornando indietro di 3 anni, faccio anche voi la domanda che ho fatto anche alle altre vostre 4 compagne. Tornando indietro di 3 anni, rifareste questa scelta? E sia per l'indirizzo che per la scuola? Allora, l'indirizzo forse no. Diciamo che in terza media avevo 3 scuole su cui ero indecisa, alla fine ho scelto questa. Però diciamo che se dovessi riscegliere questa scuola cambierei indirizzo. Diciamo che ho avuto più una spinta verso questo indirizzo quando volevo fare qualcos'altro. Tanto che adesso, come dicevi, dopo l'esame sceglierai insomma di fare, sì, un altro percorso. Esatto. Adela? No, io sono convinta, ero convinta e rimango convinta. E rimani convinta. Esatto, della scelta che ho fatto. Bene così, allora vi lasciamo studiare per gli esami che sono tra pochi giorni. Di nuovo in bocca al lupo. Salutiamo Fabiola, Adela che sono qui, Sonia, Francesca, Valentina e Sara che sono state con noi nei 2 blocchi precedenti, il professor Bison che vi ha accompagnate. Di nuovo in bocca al lupo. Crepi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.